Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io un appello che faccio: che non vengano qui per farsi i selfie sulle macerie, perché un pochettino mi incazzo, insomma. Oggi ne ho visti qualcuno l'ho scacciato a malo modo. Nessuno venga a fare le foto sulle macerie di questa terra. Il turismo del dolore, il pellegrinaggio sui luoghi delle tragedie non risparmia neppure Amatrice. Dopo Cogne, Avetrana e la Concordia, oggi tocca al paese reatino distrutto dal sisma. Il tour di turisti armati di macchinette fotografiche e smartphone è stato stoppato dalla reazione furiosa di Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice ancora ferita. Il primo cittadino ha cacciato i turisti che si facevano i selfie. Il sindaco di Amatrice non è nuovo a gesti clamorosi, dichiarazioni clamorose, ma il fenomeno non è nuovo. Immaginate quello che accadeva nei luoghi dei delitti televisivi, quanti selfie sono fatti ad Avetrana. Ma noi stessi parlammo recentemente con Macio Capotonda del suo ultimo film dedicato a un piccolo paese che si voleva rendere celebre inventandosi un grande delitto. Beh, anche lì nella lettura satirica di questa tendenza di farsi selfie in luoghi in cui accade qualcosa comunque di epico, di orribile, c'era la sagoma del cadavere della contessa uccisa in questo paese, in cui i turisti venivano e si collocavano al suo interno per farsi appunto un selfie. Selfie è una parola abbastanza recente, si meritò gli onori del dizionario dei neologismi un anno in cui fu la parola che era più usata e più frequentata in rete, ma fino a qualche anno fa noi parlavamo di autoscatto, ancora con un termine molto nostrano. Il selfie lentamente è diventato una modalità di certificazione della propria esistenza, una modalità di segnatura di un territorio. Mi faccio un selfie in quel posto per dire che ci sono stato, mi faccio il selfie con quella persona per raccontare che sono stato a cena con lei, mi faccio un selfie in quel particolare atteggiamento della mia vita privata perché voglio condividerlo con altri e voglio creare passo dopo passo quella che è una mia epica esistenziale individuale, costellata in una sorta di galleria di ritratti in cui sono sempre io, come i sovrani facciano fare dei ritratti perché erano i sovrani, devono passare alla storia. Ognuno di noi ha la possibilità di passare a una sorta di storiografia individuale, quindi si fa un selfie. Il selfie ha delle sue metodologie, delle sue tecniche. Per fare il selfie esiste il selfie stick, che è il braccetto che allunga il proprio smartphone. I selfie stick vengono venduti accanto a tutti i grandi monumenti delle città storiche. Perché? Perché chi va in quella città vuole legare la sua storia individuale alla storia universale del monumento e si fa il selfie. Il selfie stick serve per dare un campo più ampio di visuale, quindi me lo posso fare insieme alla famiglia, insieme al gruppo dei pensionati con cui viaggio, insieme alla scolaresca, insomma diventa un selfie collettivo. Siamo stati tutti noi che siamo abituati alla foto di classe fatta dal fotografo che veniva chiamato una volta l'anno, tutti i bambini belli con il fiocco, con il grembiulino uguale, con la maestra al centro che posavano contro la parete o contro la lavagna facendo finta di scrivere o indicando con il dito un punto della carta geografica. Erano le meste possibilità che avevamo di avere un'iconografia individuale. Oggi l'abbiamo per ogni istante della nostra vita. Questo su un piano individuale probabilmente ci gratifica, ci dà l'occasione e l'illusione di partecipare a una grande storia della contemporaneità, ma su un piano sociale crea qualche problema. Avete sentito, il sindaco d'Amatrice si è stufato. È la prima volta che qualcuno dice no, basta, non si può. Ma è anche uno stufarsi, un protestare contro la storia, contro la contemporaneità, contro la modernità. Perché evitare di fare selfie sulle macerie? Mi domando io. Perché uno dovrebbe avere il diritto di lasciare una traccia il fatto che lì era stato, perché quelle macerie sono intrise di sangue, di dolore, di sofferenza. È vero anche questo, ma sono punti con cui deve fare i conti comunque la contemporaneità, perché ognuno di noi ormai ha uno strumento individuale di certificazione della propria esistenza e questo deve usare, lo usa, non può fare a meno di usarlo. Quando si creano i problemi? I problemi si creano quando un ministro della salute deve intervenire ufficialmente e sollecitare i medici, cioè non vi fate i selfie selfie in corsia, non vi fate i selfie in sala operatoria, non vi fate i selfie nell'esercizio della vostra delicatissima funzione di medici, perché vi siete a contatto con la sofferenza, col dolore, con la privatezza. Perché è accaduto questo? È accaduto perché anche i medici sono esseri umani, anche gli infermieri sono esseri umani, anche loro hanno dei social, e nei loro social spesso appare appunto la foto del medico, dell'infermiere, mentre sta operando, mentre sta in corsia, mentre sta accanto appunto a un degente. Arriviamo poi alle esasperazioni, a dei casi che sono dei casi penalmente perseguibili, non appartengono probabilmente alle nostre latitudini, ma si vedono l'infermiera accanto al cadavere, il medico accanto al paziente in anestesia, in momenti abbastanza delicati. Ma andando avanti ancora, la stessa ordinanza è poi stata fatta anche sui magistrati, sugli agenti di polizia. Il poliziotto non si deve fare il selfie mentre compie un arresto, mentre fa un'azione, anche semplicemente mentre sta facendo quello che è il suo quotidiano dovere. Nel 2013 è stata una circolare in cui i vertici dei carabinieri delle Fiamme Gialle vietavano ai loro uomini di postare commenti, selfie, fotografie. Non dimenticate il caso del terrorista ucciso in Italia, molti hanno detto grande brillante operazione, però stranamente dei due poliziotti che hanno compiuto questa operazione di polizia si sa poco, perché c'è l'imbarazzo che nei loro profili, soprattutto in quello di uno, profili Facebook, c'erano comunque dei selfie che in qualche maniera davano un'immagine che probabilmente non era totalmente consona a quello che deve essere un ufficiale di pubblica sicurezza, deve essere un poliziotto. Oggi di questo rifletteremo, su quello che è il pericolo del selfie, su quello che è l'esasperazione del selfie, su quello che è un fenomeno sociale con cui comunque dobbiamo fare i conti. 800 24 00 24, voi che selfie vi fate? Cosa fotografate? Qual è i momenti della vostra giornata privata o pubblica che voi amate immortalare e condividere con gli altri? Tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Si scattavano selfie sui binari per mettersi in mostra con i loro scatti agli occhi degli amici, ma si mettevano in pericolo una volta in più in una sorta di gioco che sempre più spesso può rivelarsi mortale. Quattro amiche, tutte tredicenni, sono state viste da alcuni passanti mentre scavalcavano pericolosamente la recinzione della ferrovia a Legnano. Solo pochi giorni fa è morto un loro coetaneo in Calabria per la stessa deprecabile moda di farsi selfie il più vicino possibile ai treni in corsa. I passanti hanno chiamato la polizia locale, che le ha identificate proprio mentre erano ancora intente a fotografarsi con i loro smartphone, e hanno avvisato le famiglie. Per le tali ragazze non sono ancora imputabili, il reato è stato depenalizzato, ma è intervenuta la Polfer combinando una sanzione di 150 euro ciascuna. Il daredevil selfie, il selfie temerario, impazza sui social, un'abitudine che deve essere assolutamente fermata. Una settimana prima della tragica morte dell'adolescente calabrese, altre due giovanissime amiche erano state sorprese ed invitate subito ad andarsene mentre scattavano con i cellulari sui binari all'altezza del passaggio a livello di Gerenzano, Varese, fino a pochissimi istanti prima dell'arrivo del treno. 800 24 00 24, che selfie vi fate? Come vi regolate con i vostri figli? Quali sono i momenti che volete condividere? È importante saperlo, perché da quello che si condivide molte volte è chiaro quello che noi vogliamo essere, non quello che siamo, assolutamente no, ma quello che noi vorremmo essere. Quindi osservate per un attimo come vi siete raccontati e ricorderete a voi stessi quello che voi ambite ad essere. Ora, il selfie temerario accennato in questo servizio, chiaro, in esasperazione, una sorta di roulette russa, farsi la foto mentre arriva il treno, farsi la foto nel momento temerario, nel momento del rischio, una deviazione dell'intrepidezza giovanile che molte volte ha cercato dei luoghi di esasperazione. In questo caso basta avere un telefono in mano e un istante dopo vedere gli amici che ci dicono: vedi quanto sei stato figo. Ma esiste una forma involontaria, può accadere e coinvolgere anche un tranquillo villeggiante, una matura coppia in vacanza? È il selfie mortale fatto nel luogo storico. Un signore è morto cadendo dalle scale di un famoso monumento indiano, perché si faceva un selfie, infatti si vedesse tutta la cupola del monumento, è caduto e si è fatto male. Esistono luoghi panoramici in tutto il mondo in cui c'è proprio il cartello, il divieto, quindi è prescritto che non si possono fare i selfie. Perché? Perché è un bellissimo tramonto su una scogliera in riva al mare può diventare un luogo in cui ci si uccide, e spesso è successo. Un muro di una abbazia a picco su una montagna può essere un luogo deleterio e pericoloso. Accade sempre più spesso che persone, per sporgersi, per fare dei selfie, si fanno comunque, rischiano moltissimo se non muoiono. Proprio pochi giorni fa una ragazza è caduta nel Tevere mentre si faceva un selfie. La polizia l'ha soccorsa, si è salvata, ma questa voleva farsi un selfie dal ponte Sublicio, era salita sul parapetto del ponte, un gesto temerario, sconsiderato, magari veniva anche una bella foto, è cascata di sotto e le è andata bene, e che molti ci hanno lasciato le penne. Ecco, sembra impossibile, tutti gli indicatori, tutti quelli che hanno previsto il futuro, nessuno aveva mai immaginato che comunque dalla proiezione digitale dell'umanità attraverso la rete sarebbe venuto fuori proprio un pericolo reale, concreto. Si rischia la vita oggi con un telefono in mano molto di più di quanto la si rischiava facendo una telefonata da casa una volta. Al massimo ci si poteva strozzare andandosi il filo al collo, non so. Mario, buongiorno. Ah, buongiorno. L'ascolto. Pronto? Sì. Buongiorno, apprezzo tantissimo la sua qualità espressiva, anche in temi che sono aria fritta fondamentalmente, perché è pazzesco quanto sia impossibile immaginare... Aria fritta fino a un certo punto, no, mi scusi, sto parlando di gente che muore, scopriamo che dei medici, dei chirurghi amano farsi la foto mentre ci squartano le budella, aria fritta... Sì, non mi fraintenda, non era nessuno film, era pazzesco, io le ripeto, apprezzo benissimo la sua qualità espressiva, il suo modo di fare... Sta dando del confezionatore del nulla, parlo di un problema concreto, poi non è che offendole, può dire quello che vuole. No, nel senso, l'aria fritta è l'argomento delle persone che non hanno un minimo di senso di etica, che poi è un livello culturale bassissimo, evidentemente. Il popolo è bue, non si può andare a fare un selfie davanti alle macerie per poi farle vedere agli amici, vedere su Facebook. Onestamente non sono molto d'accordo, ma io non ho questo vincolo di ordine etico. Se vado in un luogo a visitare un luogo, un interesse a vedere quel luogo, e posso fare una trave anche davanti al Colosseo, non può dire ma lì sai c'è morta tanta gente. Ho capito, ci sono andato, oggi ho questa possibilità di legare me comunque a un momento della mia vita. Censurarla non serve, secondo me. Poi capisco il sentimento del sindaco, che è arrabbiatissimo perché ancora stanno in una situazione devastante, nonostante il tempo, le promesse, le passerelle e le transumanze di politici sono andati a Matrice a dire tutti che avrebbero fatto qualcosa, questo lo capisco, però in generale andare contro quello che è lo spirito della nostra contemporaneità. Oggi siamo abituati comunque a crearci una nostra esistenza epica perché abbiamo uno strumento per farlo. Dire non farlo significa impedire alle persone di una possibilità e diritto della loro espressività. In questo non sono così drastico, sinceramente. Trovo che invece sia pericoloso farsi il selfie in luoghi in cui si rischia la vita, quello sì. Farsi sulle rotaie di un treno in corsa o su un parapetto di un fiume e rischiare di cadere sotto è qualcosa che mi lascia perplesso. Non immaginavo che la tecnologia unita a una nuova capacità dell'umanità di rappresentarsi potesse portare a questo tipo di esasperazione. Ma su questo voglio riflettere. Se poi questo nel suo giudizio era fritta, è lieto di pensare, è libero di pensarlo come vuole. Cristina, buongiorno. L'ascolto. Pronto? L'ascolto. Sì, sono io. Allora, apprezzo tantissimo Nicoletti che lei registra la realtà. Adesso mi si dirà che sono una vecchia perché ho 72 anni, però vivo... Vabbè, non è proprio di primo pelo, ma c'è di peggio, figuriamoci. Assolutamente sì. Però io adesso mi immagino... magari un mio parente, un mio figlio fosse morto in quel luogo e vedo due turisti che si fanno un selfie. Ma io piglio un bastone e li corro dietro. Sì. C'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto. Però lei ragioni, un attimo insieme ragioniamo, Cristina. Ho capito, è vero, è giusto. Ma non è che...

Sì, questo nasce dal fatto appunto che le telecamere, gli smartphone hanno invaso la nostra vita. Ormai si ragiona tendenzialmente social, si ragiona attraverso le immagini. Il livello di attenzione, per esempio, si innalza solo quando abbiamo una testimonianza video. Anche ormai, se si racconta anche io sono stato ad Amatrice, ho visto questo, se non c'è anche il nostro interlocutore, la prima cosa che ci chiede è: hai un video? Hai una foto? È ormai diventato un nostro processo di pensiero automatico da questo punto allora, scusa, di vista. In questo in parte mi dai ragione che dargli un'accezione moralmente disdicevole è nemmeno esatto. È la maniera contemporanea di partecipare. Può esserci anche una partecipazione onesta, attiva, proattiva, col desiderio di aiutare. E il mezzo di raccontarla oggi è questa, di dire c'ero anch'io e te lo racconto. Sì, su questo sono assolutamente d'accordo. Sennò sembra quasi come dire non vi toccate che diventate ciechi. E oggi questa è la maniera di raccontare. E lo so, perché c'è sempre dietro quasi l'idea che vi dà gusto far così. Come se fosse un gesto di lussura, credo, il fotografarsi. Non mi piace a me questo braghettonismo iconografico. No, manco a me, perché su questo discorso io sono assolutamente d'accordo. Ecco, posso essere un po' meno d'accordo su un vigile, la persona delle forze dell'ordine che si è fatta fotografare distesa all'interno di una bara. Ecco, infatti questa è una cialtronata, penso che stia ancora pagando per questo gesto. Fermiamoci un attimo, sì, era uno mi sembra o della protezione civile o di volontario, un vigile proprio che veniva da un'altra città, approfittando che c'erano delle bare, anche bare molto tristi, le bare quelle di plastica, di alluminio, che si fanno proprio in occasioni di catastrofi, e si è messo dentro, nella posizione del morto gli hanno fatto una foto. Avrebbe fatto sorridere se era un gruppo di giovani scavezzacollo che entrava in un deposito di bar e faceva una foto, nella dissacrazione propria del giovanilismo. Ma un operatore che va in un luogo dove ci sono veramente dei morti, dei terremotati, che fa quella foto, dimostra un infantilismo. È una scivolata che penso abbia pagato molto cara. Ci proviamo un istante, tra poco. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo analizzando la tendenza di farsi selfie, che in molti casi è una tendenza che provoca lesioni se non la morte, in altri casi provoca una sorta di disagio sociale quando si fanno foto in luoghi in cui comunque si è consumate delle sofferenze da parte di altre persone. Molti dicono, io stesso molte volte, può essere l'idea che qualcuno aggiunge qualcosa alla storia dell'umanità, ma molte volte non aggiungono proprio nulla. È diverso il punto di vista di un fotoreporter, di una persona che è lì per certificare degli eventi. Quindi il suo punto di vista, che molte volte è anche un punto di vista soggettivo, importante, personale, artistico, e lascia delle iconografie che fanno la storia, o che raccontano comunque la storia, o sono dei supporti su cui si può costruire una storiografia, e molte volte è la massa dei selfie che banalmente non raccontano nulla. Mario da Chieti, buongiorno. Salve, buongiorno. Io sono un fotografo professionista, mi occupo di fotogiornalismo e lei ha appena centrato il punto. Adesso buona parte del lavoro che noi facciamo è realizzato con il cellulare, e perché non ha più la qualità non è più dirimente in questo lavoro. È una cosa molto triste a dirla, però è molto triste, è triste, ma è un dato di fatto, giustamente. È la realtà, è così. Conta avere l'immagine. Cioè, allora, nel mio mestiere non è che prima le cose andavano diversamente. Sì, ma prima erano in pochi che andavano in certi posti dove accadeva qualcosa e raccontavano quello che accadeva, o avevano un grande colpo di fortuna che hanno la macchina fotografica e fotografavano. Oggi tutto il mondo ha una macchina fotografica, quindi ci sarà sempre qualcuno dove accade qualcosa che può fotografarlo. No, tenga presente che l'agenzia più importante, o per meglio dire quella più prestigiosa, che è Magnum, circa 3 anni fa, se non ricordo male, ha preso un fotografo medio orientale, non mi ricordo se siriano o iraniano, che si occupa di fotografia di guerra. Questo mio collega scatta solo ed esclusivamente con iPhone, solo ed esclusivamente con cellulare, e lo fa in maniera eccelsa. È una sua ricerca stilistica, dice al minimo della tecnologia do il massimo del risultato. Io poco fa, prima che iniziasse la trasmissione, stavo sentendo sul canale YouTube di un negozio di Milano, che è frequentato dai fotografi più importanti italiani e internazionali, un'intervista a un mio collega che, alla domanda che cos'è per te la fotografia, lui ha risposto tirando in ballo proprio il cellulare. Cioè lui ha detto: con la macchina fotografica il fotografo si annulla, si nasconde, cioè antepone un oggetto fra se stesso e ciò che sta fotografando. Con il cellulare invece è diverso, con il cellulare è l'esatto contrario, è il fotografo che è chi fotografa, che è protagonista di ciò che sta fotografando. È chiaro, noi ricerchiamo sempre l'interfaccia più diretta. Anche il pittore alla fine non vorrebbe più avere il pennello in mano, vorrebbe l'opera d'arte uscire dalle sue dita. Anche il musicista vorrebbe sentire le armonie e le sinfonie senza nemmeno avere l'orchestra. È chiaro che il punto d'arrivo sarebbe che abbiamo la supervista l'obiettivo infilato dentro la nostra cornea e ci fotografiamo col nostro cervello. Però diciamo che la verità esiste, foto e foto. Io mi rendo conto che lei, nel suo mestiere, se ha un iPhone in mano, si trova di fronte a un evento, fa comunque uno scatto diverso da quello che potrei fare io. Lo vedo, chi lavora con me in questa trasmissione è un fotografo molto raffinato, Fabrizio Intonti. Se lui mi fa anche una foto col cellulare, non è mai la foto che mi faccio da solo. Perché? Perché è diverso, in mano sua è un'altra cosa. È chiaro, questo è lampante palese. Però penso che ancora il senso di fare una foto nella maniera giusta, con la luce giusta, con l'angolatura giusta, con l'obiettivo giusto, con la macchina giusta, con la qualità giusta, abbia un senso? Sì, senza dubbio. Lei da che parte sta? Di che scuola è lei? Al minimo la tecnologia, al massimo dell'intervento umano, allora, o viceversa? Io mi sono occupato da sempre di fotografia di spettacoli e da circa quasi 3 anni ho iniziato a occuparmi di reportage. 2 anni e mezzo fa ho fatto il mio primo servizio in Slovenia, sono andato nel piazzale dove praticamente c'è l'ultimo metro della rotta balcanica. Sì. E lì ho cambiato, sono stato costretto a cambiare completamente il mio atteggiamento nei confronti proprio dell'attrezzatura fotografica. Cioè ho scoperto un altro mondo. Prima per me la borsa era quasi un dramma, perché e più che altro lo sapeva la mia certo, schiena. E in questo ambito fotografico invece ciò che ti porti appresso, cioè la quantità di ciò che ti porti appresso, non significa assolutamente niente, e neanche la qualità. Certo, fotografare con una Leica, con un 35 mm Summilux è un'altra cosa. Però fondamentalmente conta ciò che stai fotografando e come lo fotografi. Sì, questo è chiaro. E anche l'occasione, trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, con in mano qualcosa di giusto. Oggi il bello è che lei è un fotografo e comunque ha sempre una macchina fotografica addosso, anche quando è in borghese, anche quando è in vacanza. Altrimenti in altri tempi sarebbe mangiato i gomiti. Guarda, se avessi avuto la macchina potevo fare uno scatto fantastico. Oggi può farlo. Sarà minore la qualità, ma l'impegno e il colpo d'occhio comunque gratifica lo scatto che fa. Però ecco, noi stiamo parlando di una punta alta dell'uso che facciamo della nostra protesi individuale. Esiste un uso massivo che in realtà non racconta nulla. Tea, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Io volevo semplicemente dire che effettivamente fare le foto è il modo che i ragazzi, o comunque i più giovani, hanno adesso per ricordare, per testimoniare. Credo che sia un atto molto normale per loro, ma come lo è diventato anche per noi non giovanissimi. Lei quanti anni ha, Tea? Io ne ho 32. Beh, lei è giovane. Se lei ne avesse avuti soltanto 50, della sua vita avrebbe avuto, della fanciullezza, 15 foto, 20 foto, dell'adolescenza magari qualcuna in più, poi le foto del matrimonio, delle feste comandate. Oggi è un'infinità di foto, è diversa. Noi ricordavamo, io ricordo la mia fanciullezza su 3 foto,